ad alta voce. Lino Guanciale legge Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Traduzione di Ettore Capriolo. L'ufficiale all'improvviso spense la candela e uscimmo. Si era levata la luna. Sagome nere s'aggiravano fiacche, versando acqua sui tizzoni da cui proveniva una sorta di fischio. Il vapore saliva nel chiaro di luna. Il negro picchiato gemeva da qualche parte. «Che fracasso che fa quel bestione!» disse l'instancabile uomo coi baffi materializzandosi accanto a noi. «Se lo è meritato! Trasgressione, punizione! Bang! Senza pietà! Senza pietà! È l'unico modo! Impedirà qualsiasi incendio futuro! Stavo proprio dicendo al direttore...» E s'accorse allora del mio compagno. D'un tratto si sgonfiò. «Non ancora a letto!» disse con una sorta di cordialità servile. «È naturale! Ah, pericolo!» Agitazione, e sparì. Io continuai a camminare lungo il fiume, con l'altro dietro. Mi giungeva all'orecchio un mormorio severo. «Panda di cialtroni, andate a...» Si vedevano capannelli di pellegrini che gesticolavano, discutevano. Molti avevano ancora in mano il bastone. Ero convinto che se lo portassero anche a letto. Oltre la staccionata, la foresta si ergeva spettrale al chiaro di luna. E attraverso quel vago trambusto, attraverso i fievoli suoni dello sciagurato cortile, il silenzio della terra ti arrivava al cuore. Il suo mistero, la sua grandezza, la stupefacente realtà della sua vita segreta. Il negro ferito si lamentava debolmente nelle vicinanze e poi emise un sospiro profondo che guidò i miei passi in un'altra direzione. Sentii una mano infilarsi sotto il mio braccio. «Mio caro signore», disse quel tale, l'ufficiale, «non voglio essere frainteso, men che meno da lei, che vedrà il signor Kurz molto tempo prima che io abbia questo piacere. Non vorrei che si facesse un'idea sbagliata della mia posizione». Lo lasciai continuare, quel Mefistofele di cartapesta, e mi sembrava che, volendo, avrei potuto perforarlo con un dito senza trovarci dentro niente, se non forse un po' di polvere. Aveva progettato, capite, di diventare a poco vice direttore alle dipendenze dell'attuale titolare, ed era chiaro che l'arrivo di quel Kurz li aveva scombussolati tutti e due. Parlava frettolosamente e io non cercai di fermarlo. Tenevo le spalle appoggiate al relitto del mio battello, tirato in secca sul pendio come la carcassa di un grosso animale fluviale. Avevo nelle narici l'odore del fango primordiale per Giove, e davanti agli occhi la grande quiete della foresta primordiale. C'erano macchie luminose sul nero dell'insenatura. La luna aveva steso su ogni cosa uno strato sottile d'argento, sull'erba rigogliosa, sul fango, sul muro di intricata vegetazione, alto più del muro di un tempio, sul grande fiume che vedevo brillare attraverso una buia apertura, mentre scorreva maestoso, senza neppure un mormorio. Tutto questo era grandioso, muto, in attesa. E intanto quell'uomo cianciava di se stesso. Mi domandai se la quiete sul volto dell'immensità che ci stava guardando volesse essere un appello o una minaccia. Cos'eravamo noi che eravamo finiti lì? Avremmo saputo maneggiare quella cosa muta? O sarebbe stata lei a manipolarci? Sentivo quanto era enorme, spaventosamente enorme, questa cosa che non poteva parlare e che forse era anche sorda. Che cosa c'era dentro? Ne vedevo arrivare un po' d'avorio e mi avevano detto che lì c'era il signor Kurz. Avevo sentito parlare parecchio di lui, Dio mi è testimone, e tuttavia non evocava alcuna immagine, non più che se mi avessero detto che c'era un angelo o un demonio. Ci credevo come uno di voi potrebbe credere che il pianeta Marte è abitato. Ho conosciuto una volta un fabbricante di vele scozzese che era sicuro, assolutamente convinto che su Marte ci fossero delle persone. Se gli chiedevi qualche notizia sul loro aspetto e il loro comportamento, si intimidiva e borbottava qualche cosa sul fatto che camminavano a quattro gambe. E se tu sorridevi, benché avesse ormai 60 anni, era pronto a fare a pugni, Io non sarei arrivato a battermi per Kurz. ma per lui andai molto vicino a mentire. Voi sapete che io odio, detesto, non sopporto le bugie, e non perché sia più sincero degli altri, ma semplicemente perché mi fanno orrore. C'è nelle bugie un tocco di morte, un sapore di mortalità, che è esattamente ciò che odio e detesto al mondo, ciò che voglio dimenticare. Mi deprime e mi nausea come se attentassi qualcosa di marcio. Un fatto di temperamento, immagino. Bene, andai vicinissimo a mentire, lasciando che quel giovane sciocco credesse ciò che gli piaceva immaginare sulla mia influenza in Europa. In un attimo divenni finto come gli altri pellegrini ammaliati, puramente perché mi ero messo in testa che sarebbe stato in qualche modo d'aiuto a quel Kurz che allora non avevo mai visto. Non lo so se mi capite. Per me era soltanto una parola. Non vedevo nel suo nome quell'uomo più di quanto lo vediate voi. E voi? Voi lo vedete? Vedete la sua storia? Vedete qualcosa? Mi sento come se cercassi di raccontarvi un sogno. E sarebbe un tentativo inutile, perché nessun resoconto di un sogno può trasmettere la sensazione che nel sogno si prova, quella mescolanza di assurdità, di sorpresa e di smarrimento in un fremito di spasmodica rivolta, quell'impressione di essere prigionieri dell'incredibile che è l'essenza stessa dei sogni. Marlowe rimase un attimo in silenzio. No, è impossibile. È impossibile trasmettere la sensazione di vita di una qualsiasi epoca della propria esistenza, ciò che ne costituisce la verità, il significato, l'essenza sottile e penetrante. È impossibile. Viviamo come in sogno. Soli. Fece una pausa, come per riflettere, e poi aggiunse: naturalmente in tutto questo voi altri vedete più di quanto potessi vedere io allora. Voi vedete me, che conoscete. L'oscurità era ormai così fitta che noi ascoltatori potevamo a stento vederci. Già da un pezzo Marlowe, seduto un po' discosto, era per noi soltanto una voce. Nessuno aprì bocca, forse gli altri si erano addormentati, ma io ero sveglio, ascoltavo. Ascoltavo attento a non lasciarmi sfuggire la frase, la parola, che mi avrebbe permesso di capire il vago disagio prodotto da quella narrazione che pareva prendere forma senza labbra umane nella pesante aria notturna del fiume. «Sì», riprese Marlowe. «Lasciai che quell'ufficiale si sfogasse e che pensasse ciò che più gli piaceva dei potenti che stavano alle mie spalle. Questo feci. E alle mie spalle non c'era niente. Niente se non quel vecchio, sciagurato, malandato battello cui stavo appoggiato, mentre lui parlava eloquentemente della necessità per ogni uomo di farsi strada». «E quando si viene qua giù, capisce, non è per contemplare la luna», disse. «Il signor Kurz era un genio universale, ma anche per un genio sarebbe stato più facile lavorare con strumenti adeguati, uomini intelligenti. Lui non fabbricava mattoni, dopotutto era materialmente impossibile farlo, come io sapevo bene. E se lavorava come segretario del direttore era solo perché un uomo ragionevole non respinge mai a cuor leggero la fiducia dei suoi superiori». Non ero d'accordo, lo ero. Cos'altro volevo? Ciò che realmente volevo erano i bulloni, per Dio. Bulloni, per andare avanti nel lavoro, per tappare la falla. Ce n'erano intere casse giù sulla costa, accatastate, sfasciate, spaccate. Prendevi a calci un bullone quasi a ogni passo nel cortile della stazione sul pendio della collina. E altri bulloni erano rotolati nel boschetto della morte. Dovevi solo chinarti per riempirtene le tasche. Eppure non se ne trovava uno dove se ne aveva realmente bisogno. Avevamo lamiere che sarebbero andate bene, ma niente con cui fissarle, e ogni settimana il messaggero, un negro con la borsa delle lettere a tracolla e il bastone in mano, lasciava la nostra stazione diretto alla costa, e più volte la settimana arrivava dalla costa una carovana carica di merci. Orribili, luccicanti pezze di calicò che ti facevano venire i brividi solo a guardarle, perline di vetro che potevano valere un soldo a boccale, orripilanti fazzoletti a pallini, ma niente bulloni. Eh sì che i portatori sarebbero potuti arrivare con tutto il necessario per mettere il battello in condizione di navigare. Lui intanto aveva assunto un tono confidenziale, ma penso che la mia evidente indifferenza lo avesse finalmente portato all'esasperazione, perché ritenne necessario informarmi che non aveva paura né di Dio né del diavolo, figurarsi di un semplice essere umano. Replicai che lo capivo benissimo, ma che in realtà avevo bisogno di una certa quantità di bulloni, e che di bulloni avrebbe avuto bisogno anche il signor Kurz, se soltanto se ne fosse reso conto. Ora, ogni settimana partivano lettere per la costa. «Mio caro signore», esclamò, «io scrivo sotto dettatura». Insistetti sui bulloni. C'era una soluzione per un uomo intelligente. Il suo atteggiamento cambiò. Divenne freddissimo e d'un tratto prese a parlare di un ippopotamo. Si chiese se, dormendo a bordo del battello, io passavo giorno e notte appiccicato al mio relitto, non ne ero disturbato. Si trattava di un vecchio ippopotamo che aveva la brutta abitudine di salire sull'argine e di vagare di notte nell'area della stazione. I pellegrini uscivano sempre in massa a scaricargli addosso tutte le carabine su cui potevano mettere le mani. Alcuni avevano persino vegliato notti e notti per aspettarlo, ma tutte queste energie erano andate sprecate. «Quell'animale», disse, «ha una vita fatata». Ma da queste parti si può dire questo soltanto delle bestie. Non c'è uomo qui, mi segue, non c'è uomo che reggerebbe a una vita fatata. Rimase ancora un attimo nel chiarore della luna con il delicato naso ad unco un po' di traverso e gli occhi di mica che scintillavano senza battere ciglio e poi, con un secco buonanotte, si allontanò. Capii che era un po' turbato e parecchio perplesso, cosa questa che mi rese più ottimista di quanto non fossi da giorni. Fu un grande conforto passare da quel tizio al mio influente amico, lo sconquassato, contorto, fracassato e scadente battello. Salì a bordo. Risonava sotto i miei piedi come una scatola di latta di biscotti Huntley & Palmer's presa a calci lungo una cunetta. La sua struttura non era certo così solida e la sua forma era decisamente meno elegante, ma gli avevo dedicato tanto di quel lavoro che avevo finito per amarlo. Nessun amico influente avrebbe potuto servirmi meglio. Mi aveva dato la possibilità di uscire un po' fuori, di scoprire cosa sapevo fare. No, non mi piace lavorare. Avrei preferito poltrire e pensare a tutte le belle cose che si possono fare. Non mi piace lavorare, non piace a nessuno, ma mi piace ciò che nel lavoro è insito, la possibilità di trovare te stesso, la tua realtà, per te, non per gli altri, ciò che nessun altro uomo potrà mai sapere. Loro vedono soltanto l'apparenza e non sono mai in grado di capire cosa realmente significhi. Non mi sorprese vedere che c'era qualcuno seduto a poppa sul ponte, con le gambe penzoloni sopra il fango. Dovete sapere che ero diventato abbastanza amico dei pochi meccanici che c'erano nella stazione, disprezzati ovviamente dagli altri pellegrini, probabilmente per i loro modi tutt'altro che inappuntabili. Quello era il caposquadra, di mestiere fabbricante di caldaie, un buon operaio. Era un uomo alto e ossuto, con un viso giallastro e grandi occhi intensi. Aveva un aspetto preoccupato e una testa calva come il palmo della mia mano, ma pareva che cadendo i suoi capelli si fossero abbarbicati al mento e che in questa nuova sede avessero avuto modo di prosperare, perché la sua barba scendeva sin quasi alla vita. Era vedovo con 6 bambini, che per venire laggiù aveva affidato a una sorella, e la sua passione erano i piccioni viaggiatori. Era un entusiasta e un intenditore, andava pazzo per i piccioni. Finito il suo orario di lavoro, arrivava dalla sua capanna a parlare dei suoi bambini e dei suoi piccioni. Lavorando, quando doveva strisciare nel fango sotto la carena del battello, si fasciava la barba con una specie di tovagliolo bianco che si portava appresso proprio per questo. Era munito di cappi da appendere alle orecchie. Di sera lo si poteva vedere accovacciato sull'argine a risciacquare con molta cura la sua salvietta e a stenderla poi solennemente ad asciugare su un cespuglio. Gli diedi una pacca sulla schiena e gridai «Avremo i bulloni!» Balzò subito in piedi esclamando «No, i bulloni!» come se non credesse alle proprie orecchie. Poi, sottovoce, «Lei... Non so perché ci stessimo comportando come due pazzi». Accostando l'indice al naso, annuii con fare misterioso «Shh! «Magnifico!» gridò, facendo schioccare le dita sopra la testa e alzando un piede. Attaccai una giga. Ci mettemmo a ballare sul ponte di ferro. Un baccano spaventoso si levò dalla carcassa e dall'altra riva la foresta vergine lo rimandò in un rombo di tuono sulla stazione addormentata. Credo che avesse fatto balzare a sedere un buon numero di pellegrini nelle loro stamberghe. Una sagoma nera oscurò il vano illuminato della porta della capanna del direttore. Poi scomparve, e dopo un secondo o poco più scomparve anche la porta. Ci fermammo e il silenzio, scacciato dal pestare dei nostri piedi, rifluì dai recessi del paesaggio. La grande muraglia della vegetazione, una massa esuberante e ingarbugliata di tronchi, rami, foglie, frasche, festoni, immobile al chiaro di luna, era come una tumultuosa invasione di vita senza suono. Un'ondata travolgente di piante che s'accumulava e si sollevava, pronta a rovesciarsi sull'insenatura e a spazzare via ognuno di noi, piccoli uomini, dalla nostra piccola esistenza. Ma non si muoveva. Da lontano giunse sino a noi un'esplosione attutita di spruzzi e sbuffi, come se un ittiosauro stesse facendo un bagno di luce nel grande fiume. «Dopotutto», disse in tono ragionevole il fabbricante di caldaie, «perché non dovremmo avere i bulloni?» «Già, perché no? Non vedevo una ragione che ci impedisse di averli.» «Arriveranno fra 3 settimane», dissi con fiducia. Ma non arrivarono. Invece dei bulloni venne un'invasione, un'afflizione, una calamità. Arrivò a scaglioni nel corso delle 3 settimane seguenti, ogni scaglione guidato da un somaro con in sella un bianco vestito di nuovo e con le scarpe marrone, che da quell'altezza si inchinava a destra e a sinistra per far colpo sui pellegrini. Alle calcagna del somaro arrancava una litigiosa banda di negri immusoniti dai piedi doloranti, una quantità di tende, di seggiolini pieghevoli, di scatole di latta, di casse bianche, di balle marrone veniva scaricata nel cortile e quell'aria di mistero aumentava ancora di più il caos della stazione. Arrivarono in 5 puntate, con quell'assurda aria di fuga disordinata col bottino di innumerevoli negozi d'attrezzature e di botteghe di generi alimentari che, veniva da credere, stavano trascinando dopo il saccheggio nella foresta per dividerselo in parti eguali. Era un guazzabuglio inestricabile di cose in sé decorose, cui la follia umana dava un aspetto di refurtiva. Quella banda di fanatici si faceva chiamare Spedizione per l'esplorazione dell'Eldorado e credo che avessero giurato di mantenere il segreto. I loro, però, erano discorsi da sordi di filibustieri, spericolati senza baldanza, avidi senza ardimento e crudeli senza coraggio. Non c'era in tutta quella masnada un atomo di preveggenza o di intenzioni serie e non sembravano rendersi conto che queste cose sono necessarie per agire nel mondo. Estirpare tesori dalle viscere della terra era il loro desiderio, non sostenuto da motivazioni morali più solide di quelle di un ladro che scassina una cassaforte. Chi pagasse le spese di questa nobile impresa lo ignoro, ma la banda era guidata dallo zio del nostro direttore. Esteriormente pareva un macellaio di un quartiere povero e i suoi occhi esprimevano una furbizia sorniona. Portava con ostentazione il grosso ventre sulle gambe corte e nel periodo in cui la sua banda infestò la stazione non rivolse la parola a nessuno tranne che al nipote. Si vedevano vagare tutto il giorno con le teste l'una vicina all'altra a confabulare senza interruzione. Avevo rinunciato a preoccuparmi per i bulloni. La nostra capacità per questo genere di pazzia è più limitata di quanto possiate supporre. Dissi al diavolo e lasciai perdere. Avevo tempo in abbondanza per meditare. E ogni tanto pensavo anche a Kurtz. Non che mi interessasse molto, no. Ero tuttavia curioso di scoprire se l'uomo venuto lì con certi principi morali sarebbe davvero riuscito ad arrampicarsi sino al vertice e come avrebbe affrontato il proprio lavoro una volta arrivato lì. Una sera, mentre me ne stavo sdraiato sul ponte del mio battello, udii avvicinarsi delle voci, quelle dello zio e del nipote che passeggiavano sull'argine. Posai di nuovo la testa sul braccio e già m'abbandonavo alla sonnolenza quando qualcuno mi disse, praticamente quasi all'orecchio, «Io sono innocuo come un bambino, ma non mi piace farmi comandare a bacchetta. Sono o non sono il direttore? Ho avuto l'ordine di mandarlo là, è incredibile!» Mi accorsi che si erano fermati sulla riva vicino alla prora del battello, vale a dire proprio sotto la mia testa. Non mi mossi, non mi venne neanche in mente di spostarmi. Avevo sonno. È molto spiacevole, borbottò lo zio. Fu lui a chiedere all'amministrazione di mandarlo là, disse l'altro. Voleva mostrare ciò che sapeva fare e mi arrivarono istruzioni in questo senso. Pensa all'influenza che aveva quell'uomo. Non è spaventoso? Convennero entrambi che era in effetti spaventoso e poi fecero qualche bizzarra osservazione. Far la pioggia e il bel tempo, un solo uomo, il consiglio, per il naso, frammenti di frasi assurde che ebbero la meglio sulla mia sonnolenza, sino a svegliarmi quasi del tutto quando lo zio disse: «Potrebbe pensarci il clima a risolvere il tuo problema». «È solo lassù?» «Sì», rispose il direttore. «Ha mandato a valle un suo assistente con un biglietto per me, così concepito. Allontani questo poveraccio dal paese e non perda tempo a mandarmi altri individui del genere. Preferisco star solo piuttosto che avere uno di quei tipi che lei è disposto a concedermi. Tutto questo più di un anno fa. Te l'immaginavi tanta impudenza?» «E da allora più niente?» domandò l'altro con voce roca. «Avorio», ringhiò il nipote, «avorio in quantità, di prima scelta, a mucchi, davvero seccante fatto da lui». «E con l'avorio?» domandò quel sordo brontolio. «La fattura», fu la risposta che sparò, per così dire, l'altro. Poi silenzio. Avevano parlato di Kurz. A questo punto ero completamente sveglio, ma poiché stavo comodissimo dove ero, rimasi immobile, non essendoci nulla che mi inducesse a cambiare posizione. «E come è arrivato l'avorio da tanto lontano?» ringhiò il più anziano, che pareva molto contrariato. L'altro spiegò che era arrivato con una flotta di canoe al comando di un meticcio inglese che lavorava per Kurz, che a quanto pareva Kurz intendeva tornare personalmente alla stazione, avendo esaurito merci e provviste, ma dopo aver percorso 300 miglia aveva deciso all'improvviso di tornare indietro, ciò che fece da solo su una piccola canoa con 4 vogatori, lasciando al meticcio il compito di scendere il fiume con l'avorio. I due parevano sbalorditi dal fatto che qualcuno avesse tentato una simile impresa. Non riuscivano a trovare una motivazione adeguata. In quanto a me, mi sembrò finalmente di vedere Kurz per la prima volta. Fu un'immagine rapida, ma chiarissima. La canoa, 4 selvaggi che vogavano e il bianco solitario che voltava ad un tratto le spalle al quartier generale, ai rifornimenti, al pensiero della sua patria, guardando forse in faccia le profondità della foresta e quella stazione desolata e deserta. Ne ignoravo il motivo. Forse era soltanto un uomo in gamba, attaccato al suo lavoro in quanto tale. Il suo nome, capite, non era stato pronunciato neanche una volta. Era quell'uomo. E il meticcio, che per quanto mi era dato di capire aveva portato a buon fine un viaggio difficile con grande prudenza e coraggio, veniva invariabilmente citato come quella canaglia. La canaglia aveva riferito che quell'uomo era stato molto male e che non era del tutto guarito. Poi quei due sotto di me si spostarono di qualche passo e presero a passeggiare avanti e indietro un poco più lontano. Udii postazione militare, medico, 200 miglia, completamente solo adesso, ritardi inevitabili, 9 mesi, nessuna notizia, voci strane. Poi tornarono ad avvicinarsi proprio mentre il direttore stava dicendo: «Nessuno, per quanto mi risulti, tranne una specie di mercante girovago, un pestifero individuo che ghermisce l'avorio agli indigeni». Di chi stavano parlando adesso? Arguì da vari frammenti della loro conversazione che quest'uomo si trovava probabilmente nel distretto di Kurz e che al direttore non garbava. «Non ci libereremo mai della concorrenza sleale finché non faremo impiccare uno di questi figuri per dare un esempio», disse. «Ma sì», grugnì l'altro, «fallo impiccare, perché no? Tutto, tutto si può fare in questo paese. È proprio questo che dico, non c'è nessuno qui, mi capisci, qui che possa mettere in pericolo la tua posizione. E sai perché? Perché tu, nipote mio, reggi al clima e sopravvivrai a tutti loro. Il pericolo è in Europa, ma lì, prima di partire, ho provveduto a... Si scostarono un poco e si misero a bisbigliare, ma dopo un po' le loro voci tornarono ad alzarsi. «Questa straordinaria serie di rinvii non è colpa mia. Io ho fatto del mio meglio!» Il grassone sospirò. «Eh sì, è molto triste. E la noia insopportabile dei suoi discorsi!» continuò il direttore. «Quanto mi ha scocciato quando era qui! Ogni stazione, diceva, dovrebbe essere come un faro sulla via del progresso, un centro per commerciare, naturalmente, ma anche per umanizzare, migliorare, istruire. Ma te l'immagini, quello stupido!» E vorrebbe diventare lui direttore. Ah, no, E a questo punto rimase soffocato dall'eccesso di sdegno. E io alzai un poco la testa. Fu una sorpresa vedere quanto erano vicini, proprio sotto di me. Avrei potuto sputare sui loro cappelli. Stavano guardando per terra, assorti nei loro pensieri. Il direttore si sferzava una gamba con un ramoscello. Il suo astuto parente alzò il capo. «Sei stato bene da quando sei arrivato qui l'ultima volta?» disse. L'altro sussultò. «Chi? Io?» «Ah, oh, d'incanto, d'incanto! Ma gli altri, mio Dio, tutti malati, e muoiono così in fretta che non ho neanche il tempo di mandarli via da questo paese. È incredibile!» «Proprio!» grugnì lo zio. «Oh, ragazzo mio, fidati di questo. Fidati di questo, ti dico!» E lo vidi allungare quella specie di pinna del suo braccino in un gesto che includeva la foresta, l'insenatura, il fango, il fiume, e che pareva indicare con uno svolazzo disonorante al volto assolato della terra un appello proditorio alla morte in agguato, al male nascosto, alle tenebre profonde del suo cuore. Fu una cosa talmente sorprendente che balzai in piedi e guardai verso il ciglio della foresta come se m'aspettassi una sorta di risposta a quella nera esibizione di sicurezza. Voi sapete quali idee assurde possono venirci in mente certe volte. La grande quiete opponeva a queste due figure una pazienza sinistra, aspettando la fine di una bizzarra invasione. Bestemmiarono insieme ad alta voce, per la paura, immagino. Poi, fingendo di ignorare la mia esistenza, tornarono verso la stazione. Il sole era basso e, chinati in avanti l'uno accanto all'altro, parevano trascinare a fatica su per la collina due ridicole ombre d'altezza ineguale che li seguivano lente sull'erba alta senza piegare neanche un filo. Quarta puntata di Cuore di Tenebra di Joseph Conrad, nella traduzione di Ettore Capriolo, letta da Lino Guanciale per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi, per la regia di Luigi Iavarone, come sempre da riascoltare su raiplayradio.it.